dann mal den anderen schauen wir so. Ja, ne? Ja. Sto facendo un momento dei battuti. Oh, la tosse con riverbero. Cos'ha? Mi dico adesso arrivai, eh? Ci sta, non arrivi. Ah, vedi, ci sta qua, questa senza. Guarda che di un volume a marcia. Aspetta. No.